14. Il premio dei premi sarà una grande, lussuosa, trasgressiva serata, diceva il gerarca dallo schermo, parlando con lunghe pause, come suggeriva il prontuario retorico dell'attesa spasmodica, ovvero sia il manuale di tecnica infrapneumatica di dilatazione concettuale, ovvero il De Longis Nihil Circundacere, nonché l'importance fondamentale du mot suspendu, ovvero il Tauma Talking, testi sacri degli attori e dei politici contemporanei. Atarva guardava svogliatamente, aveva abbassato ulteriormente la temperatura e numerosi ghiaccioli si erano sparsi sui computeri e sul suo pellicciotto. Quando si muoveva, tintinnava come un albero di Natale. «Mi raccomando a voi, amici compositori», proseguì il gerarca. «Voglio tanta gioia domani sera, ricordandovi che nel corso del premio dei premi verranno premiati tutti i premiati premiati nel corso dell'anno. Inoltre verranno premiati 50 cittadini benemeriti, morti senza essere stati premiati. Ecco l'elenco degli ospiti. Per primo...» Atarva spense il computer. Conosceva a memoria la procedura di quelle celebrazioni sempre uguali, le finte biografie dei premiati, le interviste rievocative, i rimontaggi delle interviste, i tagli, gli omissis, ordinaria amministrazione. Forse lavorare sul monologo di quel Grapatax poteva essere interessante. Lavorare sul comico è difficile. Tempi precisi, etimologie che spuntano, parole che esplodono, alta precisione, orologeria, il fine segreto del caos. Difficile cambiare anche una sola parola, ma si può fare, tutto può diventare reale. Si sedette di colpo, rabbrividendo. Di nuovo quel malessere, il pensiero di quel filmato. Aveva di nuovo freddo, molto freddo, ma a lui il freddo normalmente piaceva. Sorseggiò pensoso il suo latte e la menta. Con calma, consultò la sceneggiatura della guerra Shama. A pagina 106, come prevedeva, non c'era affatto la scena della figura bruciata. C'era invece una visita guidata dell'inviato Mike Torrebruna in una fossa comune Shama. Ma la scena inquietante era lì. Si era fatto portare la cassetta e lui non aveva voglia di rivederla. Perché? Cercando di dominarsi, ne fermò l'ultimo fotogramma, con la figura ormai carbonizzata a terra. Il numero di schedatura era RC6157. RC stava per realtà composta, ma Atarva non ci credeva. Cercò sul computer l'informazione 6157. Diceva 1 minuto e 20 secondi, a colori, pellicola 70 mm, filmato in studio il 13 luglio, regista C. Dodgson, attori, agenzia Stuntman Saltarelli. Cercò subito il nome Dodgson. Non era nella lista dei registi senatori, né nei benemeriti, né nei premiati, né in quelli della scuola di Stato. Non era neanche nella lista figli di, amanti di, cugini di, fedeli di, mandati da. Cercò nella categoria pronti a tutto, portaborse, compositori in aggiornamento, bravi ragazzi indipendenti ma non troppo. Nessuna traccia. Quindi Dodgson non esisteva. Nessun regista che non fosse iscritto alle predette categorie avrebbe mai lavorato in un ente statale. Cercò Dodgson nella sezione servizi segreti e in quella ribelli pentiti. Lo trovò infine dove non se l'aspettava, tra i personaggi. Charles Carapellese Dodgson, composto nell'aprile 1986, insegnante di filosofia morale. Insieme a altri due professori di filosofia assalta una biblioteca statale uccidendo un archivista a scopo di rapina. Soggetto e sceneggiatura di Amos e Baldini. Girato con materiale di repertorio, cartoni animati e finte interviste in studio. Motivo della composizione? Screditare la facoltà di filosofia, politicamente inaffidabile. La facoltà venne chiusa il mese dopo e gli studenti sottoposti a rieducazione. N.B. Dodgson era composto, ma gli altri due professori consistevano di realtà primaria e sono stati eliminati come risulta da documentazione archivio zero. Bene, pensò Atarva, ora è tutto chiaro. Qualcuno ha scelto questo nome per sfidarci. Sta immettendo filmati primari nei nostri circuiti. Ci sono dei ribelli, nascosti qua dentro, Fin qui niente di nuovo, lo sapevamo da un pezzo. Ma c'è qualcosa d'altro. Perché io non posso guardare quel filmato? Qual è il suo segreto? C'è solo un modo di appurarlo: sapere cosa rappresenta veramente.